La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. A guardare nei ricordi sembra ancora ieri che salivo su una sedia per guardare i treni. Da dietro la finestra su un cortile grande, un bambino, mio fratello che studiava lingue misteriose, in ginocchio su una sedia coi capelli corti, eravamo forse solo nel 56, un bambino, e tutto mi sembrava andasse bene. E tutto mi sembrava andasse bene. Tra me le mie parole, tra me le mie parole e la mia anima. Questa è una delle canzoni in cui Francesco De Gregori omaggia il fratello Luigi, suo scopritore e colui che lo sosterrà nel percorso artistico. E Luigi Grechi De Gregori è l'ospite di oggi. Grechi è il cognome della mamma di Luigi e Francesco. Luigi cerca di prendere i suoi spazi e le sue distanze anche con queste scelte. Dunque, quella di oggi è una puntata dedicata alla musica, soprattutto alla musica folk, perché voi, Luigi Grechi De Gregori, continuate a cercare e far esibire giovani all'interno del progetto Folk Studio. Martedì scorso c'è stata una nuova serata romana, è così? Noi ci richiamiamo al vecchio Folk Studio di Roma da cui siamo venuti fuori, che è quello che ha creato la cosiddetta canzone d'autore romana, cioè De Gregori, Venditti, Stefano Rosso e tanti altri. Quindi ci riallacciamo allo stile folk, che adesso è troppo difficile definire che cos'è un cantautore folk, ma diciamo di una musica che è già di per sé al di fuori degli schemi commerciali, delle mode del momento e del mercato discografico. Ecco, le volevo chiedere proprio questa cosa, ma perché secondo lei parlare di musica folk oggi suona come un genere legato al passato? Cioè, perché bisogna sempre ribadire questo fatto, no, della ricerca delle nuove generazioni? Cioè, in qualche modo secondo lei non è forse legato al fatto che abbiamo applicato proprio a questo genere musicale molti stereotipi? In fondo, anche come è accaduto, sta accadendo per il blues, però quello che poi resta è che il folk, esattamente come il blues, sono la base di tante ballate contemporanee. Sì, beh, folk è un termine equivoco, perché una volta era musica trasmessa oralmente, quindi senza l'aiuto di supporti discografici o mediatici di altro genere. Oggi è impossibile, oggi tutto si trasmette via internet o via dati digitali, quindi non esiste più la canzone trasmessa cantandola, quindi bisogna ridefinire questo termine, ognuno cerca una sua definizione, non è facile dare delle regole. Secondo me il folk è tutta la musica che viene fatta con strumenti poveri e che uno può portare con sé in viaggio, cioè non è folk la musica fatta col pianoforte così, ma è folk la musica fatta con tutti gli strumenti a corde, tipo il violino, il mandolino, la chitarra, oppure il banjo, l'armonica a bocca, non quella fatta appunto con pianoforte o con costose e complesse strumentazioni. Ha parlato del banjo e mi è venuto in mente che c'è stato ultimamente un ritorno tra ragazzi molto giovani, adolescenti, a questo genere di musica, a questi strumenti. Secondo lei perché? Ma proprio questo, perché sono strumenti che possono essere suonati in casa, dovunque, possono essere portati in un giardino, in un parco, in treno, in ogni posto, mentre già se uno vuole suonare la chitarra elettrica deve portarsi dietro un amplificatore ed avere la corrente, quindi è meno portatile, diciamo, una chitarra elettrica. Lei com'è che ha iniziato invece a suonare? Cioè, qual è stato il suo primo strumento e perché lo ha scelto? È stata la chitarra ed è stato proprio al Folk Studio. Poi lì al Folk Studio c'era anche una ragazza americana, Janet Smith, che insegnava le tecniche di chitarra dello stile folk, country folk. Ma quanti anni aveva lei quando è entrato nel Fox? 18 anni. Beh, prima non aveva mai suonato nessuno strumento? No. Quindi ha 18 anni ed è diventato un grandissimo chitarrista, quindi c'è speranza per tutti. Un chitarrista non riesco ad accompagnare. No, non è vero, questa è una falsa modestia. No, perché iniziare a 18 anni, e tra l'altro volevo chiederle questa cosa, lei quando compone scrive prima la musica o la suona prima? Questa è sempre una domanda, no, non ci sono regole, in genere nascono insieme le due cose, cioè escono fuori delle frasi cantate e poi dopo da una frase cantata uno ne aggiunge un'altra e la canzone prende forma. Però leggendo un po' la sua storia, la sua biografia, ho avuto la sensazione, però magari non è una sensazione corretta, che della famiglia sia lei un po' quello ribelle, quello che ha vagato, ha cercato anche attraverso il viaggio, anche mettendo in discussione proprio quello che era, quello che faceva. È così? Forse sì, non sta a me dirlo. Perché lei ha viaggiato tantissimo, facendo tantissimi lavori diversi, incontrando la musica, ma anche lasciandola, riprendendola, cioè ha fatto proprio un percorso suo. Sono stato sì, abbastanza irrequieto, ma non tanto quanto sembra, cioè i viaggi poi dopo nel tempo vengono litizzati. Sì, ho viaggiato, sono stato... ma credo che tutto sommato come chilometri ne abbia percorsi di più mio fratello. Sì, lo so, però lei è stato in America probabilmente in un momento in cui pochi ci andavano viaggiando nel modo in cui ha viaggiato. Diciamo che ci sono andato anche in modo diverso, facendo una specie di pellegrinaggio, quindi ero più un viaggiatore che un turista. E così secondo me anche nella musica lei è entrato e resta, no? Cioè è un viaggiatore anche all'interno della musica, lo possiamo dire questo? Certo, continua a fare ancora scoperte, c'è tanta musica da ascoltare al mondo, fra le pieghe del mercato, diciamo. Ecco, perché com'è oggi secondo lei, dal suo punto di vista, il mondo della musica e del mercato della musica? Beh, insomma, sotto gli occhi di tutti. No, ma voglio dire, non c'è niente di male, che quando l'arte del vendere costa più del prodotto, cioè quando il marketing influisce sull'80-90% del costo finale del prodotto, qualche domanda bisogna farsela. È così per tutto, anche per le magliette, per le scarpe, per le borsette. Quindi non è che posso fare, non voglio fare una rivoluzione globale, però qualche domanda uno se la deve fare. Ecco, forse ci stanno dei prodotti musicali, come vengono chiamati prodotti, anche dei prodotti musicali che costano molto di meno se arrivano direttamente al pubblico in maniera semplice e con meno intermediazione, quindi dal punto di vista economico, diciamo, il mio punto di vista è questo, bisognerebbe farsi qualche domanda. Luigi Grechi De Gregori è il ragazzo con la chitarra che entra nel folk studio per imparare a suonare e diventa nel giro di poco un grandissimo musicista folk, ma soprattutto è colui che aprirà le porte a tanti altri musicisti e cantautori della scena romana. Siamo sul finire degli anni 60 e le cose a Roma vanno più o meno così. Sua musica ha finito, quanto tempo è ormai passato e passerà. Le orchestre di motori ne accompagnano i sospiri. L'oggi dove è andato, ieri se ne andrà. La prima volta. Erano gli anni del folk studio. E sarà stato il 68-69. Quella che avete appena sentito è la voce di Giovanna Marini mentre ricorda i tempi del folk studio, perché questa storia, questa prima volta, inizia qui, perché quella di oggi è una storia di musica, di ricerca e di viaggi, una prima volta che ha il sapore di un'intera generazione e di una città, Roma, una prima volta che racconta la storia di Luigi Grechi De Gregori e di tutta una generazione. Cioè, le nuove generazioni hanno più curiosità, non credo che consapevolmente contestino il sistema o il marketing, però sono più curiosi o forse sono stanche di quello che viene proposto dalle radio, mi scusi se... No, no, tanto noi non facciamo musica, per cui siamo... Ah, ecco, benissimo, no, a me capita appunto di non ascoltare più la radio perché qualunque stazione mi trasmette sempre la stessa musica, lo stesso genere, e non c'è nulla che mi attragga, ecco, quindi... Non sono più un ascoltatore di radio, non ho più la televisione, non, diciamo che tutti i programmi musicali di intrattenimento sono tutti piuttosto omologati. Quindi la musica come l'ascolta? Quindi credo che anche parecchi giovani, ma molto su internet, perché siccome sì, sono vecchio e conosco molte cose, so cosa cercare, so dove andare, so da quali nomi partire, da quali luoghi partire, quindi internet è un mezzo formidabile per ascoltare cose nuove, perché veramente possiamo sentire musica da tutto il mondo, se solo che conosciamo le lingue, solo che si conoscano alcuni nomi di artisti, e parte un viaggio che non sai mai dove ti porta, perché tramite internet un po' tutto è collegato, quindi cercando un artista poi ne vengono suggeriti altri simili, no? come sapete tutti, e quindi si comincia a fare tutto un viaggio da un artista all'altro. Questo è vero. Lei adesso ha parlato di lingue, a me le devo dire questa cosa, ogni volta che parlo di lei o penso a lei mi viene sempre in mente la canzone di Francesco De Gregori 56, in cui lei studiava lingue misteriose, no? Ma... le lingue misteriose, siccome che lingue, diciamo, io avevo 12 anni e lui ne aveva 5, quindi per lui erano misteriose il greco e il latino, lui provava a compitare ciò che stavo studiando io, non capiva niente perché aveva appena imparato a leggere, e quindi il greco e il latino gli sembravano veramente lingue misteriose. Ecco, le posso chiedere se ci racconta proprio la sua famiglia con i suoi ricordi da bambino, com'era la sua famiglia? È una famiglia normale come tante. Madre insegnante, padre bibliotecario, così. Non ricchi, neanche poveri. Presenti, amorevoli, come siete cresciuti? Certo. Ah, bene, sono stati degli ottimi genitori i nostri. Le hanno concesso la libertà di andare, di sperimentare, o se l'è dovuta ricavare lei? Beh, erano prima del 68, quindi c'era una certa rigidità su queste cose, diciamo, ho dovuto faticare un po' di più per potermi muovere come si muovono i giovani d'oggi. Ed è stato lei, tra l'altro, a scoprire suo fratello, a trovare in suo fratello l'artista che poi è diventato, è stato lei uno dei primi a sostenerlo? Beh, certo, sì, avevamo un registratore a nastro in comune a un certo punto, allora, vista la differenza d'età, non è che ci frequentassimo molto, però attraverso questo registratore scoprì le prime canzoni che lui stava componendo, scrivendo, e allora, visto che all'epoca ero appunto il direttore del Folk Studio Giovani, ecco perché il nome Folk Studio Giovani, che era uno spazio aperto a tutti i giovani la domenica pomeriggio, gestito da me e dall'altro partner che mi segue in questa avventura. E allora eravamo noi a gestire questo spazio della domenica pomeriggio, e ne approfittai per portare Francesco sul palco per la prima volta. Quindi non avete mai lavorato insieme alla composizione? No, una volta indifferita su una canzone che si intitola Dublino, in cui io ho preso un suo testo precedente e l'ho cambiato, quindi ci sono state queste forme di collaborazione indifferita. Ma questo perché? Perché non... No, perché quando il momento in cui scrivevamo, cioè, il momento in cui abbiamo cominciato a essere professionisti, ognuno andava per la sua strada, ognuno non giusto. Quindi. Giusto. Senta, le posso chiedere alcune cose personali? Cioè, se è sposato, ha figli? Sono sposato e non ho figli. Non ha figli? No. Ha scelto di non averne perché... Diciamo, non è capitato, mi sono sposato pochi anni fa. E comunque aspirazioni alla paternità o alla maternità. Ho capito. Ci può parlare del suo ultimo lavoro? Perché di questo io purtroppo non ho avuto informazioni precise. Il mio ultimo disco è Angeli e Fantasmi, sì. Uscito 2 anni fa in realtà, e quindi, ed è già, le poche copie che io ho fatto stampare sono già esaurite, quindi sto meditando, anzi sto approntando una compilation dove c'è buona parte dell'ultimo CD Angeli e Fantasmi e di quelli dei 2 precedenti. E quanto al disco, sì, è un disco che veniva da un periodo di silenzio abbastanza lungo, ma contiene alcuni pezzi nuovi e alcuni repescaggi di pezzi vecchi, visto che i miei vecchi dischi non si trovano più. L'ultima domanda che le volevo fare è quella di stasera, è una serata a cui poi faranno seguito altre serate, cioè se chi non riesce a venire stasera quando potrà incontrarla? Il 24 febbraio abbiamo una coppia di artisti lombardi eccezionali, perché sono Veronica Sbergia e Max De Bernardi, che fanno un blues di anteguerra della Seconda Guerra Mondiale, il vecchio blues molto allegro, molto simpatico, con ukulele e chitarra, una voce e uno strumento incredibili da non perdere. Lui è un vecchio pastore di nuvole, un minatore di desideri, un marinaio di lungo corso che ha navigato sui 7 dolori, lo scalatore dei monti di sabbia, il ferroviere senza binari, un vecchio pugile senza più rabbia ed un pittore senza colori. Ed un uomo è quello che mangia, ma anche i sogni che si porta nel cuore. Sono tutti i posti dove è già stato e quelli dove deve ancora andare. Ed è la pioggia che lo ha bagnato e 1000 facce da ricordare, come le pagine dei libri letti ed il ricordo di un vecchio amore. È un camionista senza volante che guida un bilico pieno di sogni, un avvoltoio di 100 anni che non ha ancora imparato a volare, esploratore senza viaggi ed architetto senza disegni, ed è un perdono senza peccato ed un prete senza l'altare. Ed un uomo è quello che mangia, ma anche i sogni che si porta nel cuore. Sono tutti i posti dove è già stato e quelli dove deve ancora andare. Ed è la pioggia che lo ha bagnato e 1000 facce da ricordare, come le pagine dei libri letti ed il ricordo di un vecchio amore. Ci fermiamo qui, ci trovate su Facebook, cercate Radio24-La Prima Volta, scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, ci sentiamo la settimana prossima, sempre di domenica alle 13:30. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli.